vuoto Antonio, vuoto Antonio, vuoto Antonio, italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti a Voto Antonio, la trasmissione con la quale ogni settimana cerchiamo di raccontarvi come la rete cambia la politica e come voi potete cambiare la politica con la rete. Questa settimana faremo una puntata alla Blogfest che si sta svolgendo in questi giorni e vedremo un attimo quali sono le nomination principali, soprattutto dal lato appunto della politica. E poi torneremo a parlare di pubbliche amministrazioni e web e utilizzo della rete. Ci sono altri esempi interessanti. È stato appena assegnato il premio IGOV 2013 e di questo parleremo. Fatemi però in apertura fare una nota, magari ci torneremo la settimana prossima, sugli sviluppi di una vicenda che abbiamo seguito. Vi ricorderete che prima dell'estate abbiamo raccontato di questa nuova piattaforma per il voto online, per la democrazia partecipata attraverso la rete, creata dal capogruppo in Consiglio regionale del Lazio del Movimento 5 Stelle Barillari, una piattaforma molto avanzata. In questo momento viene studiata all'estero, hanno preso il sistema elaborato dal partito pirata tedesco Liquid Feedback, tramite il quale appunto si possono votare di fatto delle proposte di legge tramite internet, e l'hanno modificato, ne hanno elaborato uno nuovo veramente interessante e veramente ben fatto, oggettivamente, con tutti dei criteri di sicurezza ottimi e anche semplicità di utilizzo. Ebbene, pare che questo sia stato cassato da Beppe Grillo, che dice in un post sul blog: si ricorda che non esistono applicazioni certificate al di fuori di quelle del blog. Questo anche sulla base della pressione che sta arrivando da alcuni personaggi, come per esempio il senatore Orellana, il quale torna a chiedere la piattaforma per la democrazia liquida, ossia per il voto da parte della base sulle proposte del Movimento 5 Stelle. E quindi la sostanza è che Casaleggio e Grillo ne stanno elaborando una loro, pur avendone, lo diciamo francamente, una sottomano che è proprio interessante e proprio ben fatta. Vi prometto che la settimana prossima ci torniamo, perché è un tema al quale teniamo molto. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa come sempre, poi ci sarà il punto di Stefano Folli e poi più avanti verremo appunto al cuore della trasmissione, come si diceva, pubblica amministrazione e poi Blogfest. Italiani! Voto Antonio. Come la rete cambia la politica. Ed eccoci dunque, è il momento come sempre di fare un punto sulla politica di questa settimana e come sempre lo facciamo con Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Stefano, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, avevi previsto che non sarebbe successo niente e insomma, video messaggio, grande scatenamento, Forza Italia a parte, in effetti sul governo non è successo niente. Perché noi viviamo sempre in questa strana condizione, no? Per cui sembra sempre che succeda chissà quale terremoto, poi non succede, però qualcosa succede in realtà, ed è il lento declino di questo paese, il declino anche morale, cioè, certamente politico, purtroppo anche sappiamo bene come va l'economia. Quindi il non succedere niente non è che sia una notizia sempre positiva, è, magari in questo caso lo è stata, ed era anche tutto sommato prevedibile, ma che ci sia poi questa tendenza a scivolare lungo la china senza una vera capacità di riscossa, purtroppo questo è molto malinconico. Secondo te, Stefano, perché Berlusconi ha deciso di non strappare? Perché non gli conviene in realtà? Ma non gli conveniva perché avrebbe innescato una destabilizzazione così grande che ne sarebbe stato, io penso, anche travolto. Cioè, un'operazione politica di quel genere richiedeva una capacità poi di gestire le conseguenze che secondo me oggi manca nel PDL, centrodestra, forse nello stesso Berlusconi, che è un uomo insomma molto pro trovato dagli avvenimenti, un uomo che è stato molto indebolito dalla sentenza, è inutile che si faccia finta di pensare che non è successo niente, è successo una cosa molto grave, è passata in giudicato una sentenza per un reato grave, poi lui dice io sono innocente, benissimo, lui può dire quello che vuole, però ai fini diciamo della vita pubblica del paese fa fede la sentenza e tutto questo non aiuta un'operazione politica così diciamo di prospettive così larghe, così spregiudicata come sarebbe stato mettere in crisi il governo su un fatto personale, no? Legato alla persona. E quindi, ma poi ci sono anche altre questioni relative per esempio ai valori di mercato, anche di Mediaset, insomma tante cose. Allora di fronte a tutto questo, se si deve immaginare un motivo di crisi del governo sarà più per l'economia, sarà più per certi problemi legati, che so, già all'IVA o ad altri specifici interventi economici, più che per un fatto legato al caso giudiziario personale di Berlusconi. Ecco, proprio su questo ti volevo sollecitare, Stefano, perché appunto il fuoco sembra che si sia spostato naturalmente sulle questioni economiche e questa battaglia sull'IVA, ha detto ieri Enrico Letta, insomma, una delle questioni che naturalmente stiamo discutendo, tra le questioni aperte ne discuteremo, ha detto per l'esattezza, questo miliardo di euro da reperire sul quale tra l'altro pare che il ministro dell'economia Saccomanni abbia messo sul piatto le sue dimissioni, cioè ha detto occhio perché i soldi non ci sono, quindi la battaglia si sposta da quel lato, non è più la battaglia appunto sulla giustizia ma si sposta la battaglia all'interno del governo su questioni, se vogliamo, più concrete. Sì, certo. Ora, è chiaro che l'aumento dell'IVA è un ulteriore colpo alla nostra boccheggiante economia nazionale. E, d'altra parte, qui siamo nell'ultimo trimestre dell'anno, di fatto. Tutti gli esperti dicono, ma come si fa adesso a modificare un impianto di spese che sono già state previste, che sono già state messe nei bilanci, che sono già state fatte in molti casi. Cioè, è il momento dell'anno in cui è più difficile reperire nuove risorse. Forse è meglio immaginare, sarebbe, secondo me doveva essere fatto anche prima, non da questo governo che è entrato in carica, si può dire già a metà di quest'anno. Però forse se si doveva fare un intervento sull'IVA di riscrittura delle regole dell'IVA, forse bisognava immaginare una diversa politica economica, più coraggiosa, più lungimirante. Non è che lo si può fare adesso, verso la fine dell'anno, con diciamo degli strumenti quasi ordinari. Forse sarebbe preferibile pensare adesso a un compromesso che dia comunque un qualche sollievo, che compensi l'eventuale aumento dell'IVA con qualche misura di sollievo alle imprese, anche alle famiglie, se riesce, e poi reimpostare nel 2014 alla luce della legge di stabilità un po' tutta la materia. Da questo punto di vista credo che la legge di stabilità, che dovrà essere discussa e approvata nell'ultimo tratto dell'anno, acquista quest'anno un significato molto rilevante. Molto rilevante, tra l'altro, insomma, lo abbiamo raccontato spesso anche da questi microfoni, i miliarducci da trovare, compresa l'IVA, entro la fine dell'anno sono 6, che insomma non sono propriamente spicci, ecco, quindi anche quel miliardo è importante, là probabilmente andrà trovato un compromesso all'interno di questa nuovamente... Un compromesso adesso e qualche cosa di più di un compromesso, una visione rinnovata e più coraggiosa nella gestione delle spese, degli 800 e passa miliardi di spesa pubblica, per reperire questi 6-7 miliardi che servono. Adesso il nostro deficit pare che abbia di nuovo superato, sia pure di poco, il 3%, l'Europa ci guarda, ma sono tutte cose che si possono fare meglio all'inizio dell'anno, per ragioni che chiunque abbia anche un'impresa, una società, ha perfettamente presente. Certo, ha perfettamente presenti, del resto l'abbiamo raccontato spesso, c'è un costo per le imprese e per i cittadini relativo anche all'incertezza fiscale, perché tu non sai, tra 10 giorni, non sappiamo se tra 10 giorni aumenterà l'IVA oppure no. A me sembra, continua a sembrare una cosa incredibile. Un po' lunare. La cosa peggiore è dare, lo dicevi adesso tu, l'incertezza è per il cittadino la cosa peggiore. Se poi all'incertezza uniamo la difficoltà della macchina burocratica, la difficoltà di farsi ascoltare, i costi dell'inefficienza complessiva, ecco, diventa qualcosa di intollerabile, e sono queste le ragioni del disincanto e del malessere in cui siamo immersi. Naturalmente, in tutto ciò resta comunque parzialmente in primo piano il solito tema, che è il rapporto di Berlusconi con la giustizia. Forse oggi, o meglio forse ieri, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha detto che anche la considerazione della peculiarità della funzione dei giudici e l'inequivoco rispetto per la magistratura che ne è investita sono stati e sono spesso travolti nella spirale di contrapposizioni. Forse, ecco, dopo le parole di Berlusconi sui giudici ci si aspettava una presa di posizione un po' più dura da Napolitano, però forse il ruolo che ha in questo momento, anche di garante, se vogliamo, di questa grande coalizione, gli ha impedito di essere, no, un po' più energico. I giudici vengono difesi da Napolitano, sono stati difesi da Letta. Le accuse di Berlusconi sono quelle che ascoltiamo da anni, francamente, io non mi sono scandalizzato più di tanto. Quello che occorre fare è difendere strenuamente l'autonomia della magistratura, questo non c'è il minimo dubbio, va difesa, e questo credo che Napolitano lo abbia fatto tantissime volte. Però Napolitano ha anche detto più di una volta, anche recentemente, attenzione, che difendere l'autonomia della magistratura non vuol dire ignorare il fatto che in Italia la giustizia è amministrata male, che in Italia il cittadino non ha giustizia. Questo non c'entra niente con il caso Berlusconi, anzi, semmai Berlusconi ha fatto dei grandi danni, perché ha riportato tutto al suo caso personale e si è totalmente disinteressato della complessiva funzionalità della macchina giudiziaria. Ora, la riforma della giustizia che il Presidente della Repubblica ha più volte richiamato e che invece rimane lettera morta, ecco, questa è una delle grandi priorità nazionali, ma non per certo per i casi di Berlusconi, bensì per il fatto che chiunque opera anche nell'economia, anche gli investitori stranieri che vorrebbero o potrebbero venire in Italia, sono frenati dal fatto che noi abbiamo un sistema giudiziario che non rende giustizia, proprio a caso di dirlo. E io credo che chiunque sappia di che cosa sto parlando. Allora Stefano, ti voglio portare, siamo quasi in conclusione di questo nostro passaggio, di questo nostro appuntamento, ti voglio portare ancora una volta sul Partito Democratico. Allora, oggi si conclude, dopo essere iniziata ieri, l'Assemblea Nazionale, naturalmente dovrà decidere la data del congresso. Ho un po' l'impressione che la figura di Renzi in queste ultime settimane si sia appannata. Tu che dici? Io l'ho anche scritto, quindi sì, si è un po' appannata, perché un po' per colpa sua, un po' per colpa delle circostanze, perché lui ha impostato le cose in un modo tale per cui deve essere sempre, diciamo, sulla cresta dell'onda, deve sempre essere un passo avanti agli altri, deve sempre creare una certa eccitazione di opinione pubblica intorno a se stesso, alle sue proposte, alle sue iniziative. E tutto questo va bene nel corto periodo, ma certo, se le cose si trascinano, se, diciamo, le resistenze del Partito Democratico a vario titolo sono fatte proprio per creargli una serie di problemi e farlo correre nella sabbia anziché su una pista veloce, e beh, è chiaro che secondo poi... te sta ancora succedendo questo, Stefano? Ma un po' sì, ma però qui c'è anche la parte che riguarda lui, Renzi, cioè è sua la colpa, perché lui ha fatto una serie di errori, li sta facendo, usa delle espressioni che si prestano a delle polemiche sterili, no? Quando ha detto asfalterò la destra, asfalterò Berlusconi. Ecco, per esempio, quella è un'espressione secondo me sbagliata. Sbagliata perché tradisce la voglia, l'anelito a correre alle elezioni anticipate, cosa che secondo me in questo momento sarebbe troppo pericolosa per questo paese già profondamente scosso. Ma poi lui ha detto una cosa giusta nel corso della sua carriera politica, ha detto noi del centro-sinistra dobbiamo prendere i voti del centro-destra, i voti della gente che per tanti anni ha votato Berlusconi, questo è giusto, ma se tu usi l'espressione vogliamo asfaltarlo, terrorizzi o comunque crei un certo sconcerto proprio in quel tipo di elettorato che va invece sedotto, va invece convinto con delle argomentazioni, con degli argomenti chiari, con delle proposte concrete e che si distacchino da quello che è un po' il vecchio armamentario della sinistra. Questo doveva fare Renzi, mi sembra che lo stia facendo poco. Sì, poi potremmo discutere all'infinito anche sulla scelta, no? Infelice di dire frasi di questo genere, molti hanno collegato lo asfaltiamo a lo smacchiamo, a smacchiare il giaguaro, poi quello non lo smacchi, non lo asfalti. C'è una tradizione di frasi infelici che vengono da a partire dalla gioiosa macchina da guerra, naturalmente, non entriamo in quell'ambito. Allora, grazie Stefano per questa settimana, buona giornata. Ciao, buona giornata. Noi ci ritroviamo tra un attimo e come tra un po', un attimo di pausa per la pubblicità e poi come vi ho già preannunciato parleremo di pubblica amministrazione, ancora una volta di pubblica amministrazione e internet, perché c'è stato un premio che è stato assegnato in questo senso e cercheremo appunto di capire come si può incrementare l'utilizzo della rete da parte delle pubbliche amministrazioni. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. Ed eccoci di nuovo, così come la settimana scorsa, care ascoltatrici e cari ascoltatori, a parlare di pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con la rete, per così dire. Insomma, il rapporto con i cittadini tramite la rete, insomma, come può crescere da questo punto di vista. Un tema che affrontiamo spesso, i ritardi italiani li conosciamo e quindi vogliamo andare per questa settimana dal lato pionieristico, che è pionieristico in Italia, naturalmente non lo è in altri paesi come, tanto per dire, gli Stati Uniti. Di storia ve ne abbiamo raccontate da questo punto di vista. È stato assegnato giusto l'altro ieri, giovedì, un premio, il premio IGOV 2013, un premio assegnato da Pionero, che è un progetto di Maggioli Editore. Allora saluto innanzitutto il direttore scientifico di Pionero, Gianluigi Cogo, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, molto brevemente, che cos'è Pionero? Allora, l'idea è quella di creare una community anche da un punto di vista editoriale, perché poi dietro c'è una rivista online dove molti di questi pionieri della pubblica amministrazione, è un po' un pioniero inteso come il pulcino nero, che sono gli innovatori della pubblica amministrazione, un gioco di parole per dire che comunque, come hai introdotto tu, sono sempre visti come dei pionieri invece, perlomeno nel nostro paese, tutti quelli che giornalmente cercano di semplificare la vita ai cittadini, cercano di modernizzare la pubblica amministrazione, non ti nascondo, con grossissime difficoltà, spesso emarginati, spesso visti con diffidenza, spesso visti come degli scocciatori, perché fare le cose per bene, renderle anche nelle tendenze digitali ovvie, non è sicuramente facile, per cui noi creiamo una comunità attorno a questo e poi premiamo ogni anno i progetti di eccellenza, perché crediamo che nell'emulazione poi di tutto quello che è buono e che ci risolve i problemi di tutti i giorni possa nascere quella grande agenda digitale che tutti aspettiamo e che per ora è solo sulla carta. L'agenda digitale sulla carta comunque è meraviglioso, va bene. Allora, Roberto Moriondo, direttore innovazione e ricerca di Regione Piemonte, buongiorno. Buongiorno. C'è un progetto premiato tra i vostri che è il progetto telescuola. Ci spiega in cosa consiste, facendolo capire a tutti? Ah, la scuola è sicuramente un luogo dove assolutamente dobbiamo mandare i ragazzi. A volte i ragazzi, per problemi di varia natura, non possono partecipare alla vita scolastica nella maniera così come prevista dalla logistica tradizionale. Grazie al digitale noi possiamo permetterci di includere quei ragazzi facendoli sentire parte di una comunità senza nessuna forma di esclusione. Non parliamo di tecnologie d'avanguardia, ma di tecnologie ormai a scaffale, ormai diffuse, ormai acquistabili. L'innovazione è innovazione di processo, cioè farlo velocemente e farlo senza gravare sulla vita dei cittadini. Le chiedo, Moriondo, di farmi un esempio pratico. Allora, c'è un ragazzo disabile che ha bisogno, per così dire, di frequentare la scuola in remoto, no? L'esempio mi sembra questo, mi sembra di aver capito. E che cosa fa sostanzialmente? Sostanzialmente lui può aver bisogno o di ausili per essere presente anche fisicamente in aula, se ha problemi motori, o ha bisogno di essere connesso attraverso la rete e avere una partecipazione che sia la più simile a quella di una vita normale di una giornata scolastica, perché parliamo di connessione internet, parliamo di avere degli strumenti connessi, parliamo di avere una webcam, parliamo di avere degli strumenti che consentano a lui di scrivere e parlare anche se per lui queste cose sono più complicate che per altri. Ovviamente tutto questo non è fantascienza, tutto questo lo vediamo nella vita quotidiana, a volte diventa fantascienza trasformare delle cose che esistono nella normale quotidianità della pubblica amministrazione e della scuola. Ecco, questo mi sembra un tema interessante e il tema centrale che poi vorrei affrontare, ed è quello che abbiamo affrontato, lo dico, gli ascoltatori lo sanno, anche la settimana scorsa, che è il tema della cultura digitale. Allora, ci sono due questioni: da una parte una cultura digitale che non è ancora diffusa tra i cittadini, e già questo è un primo ostacolo. Dall'altra parte, la cultura digitale deve essere diffusa anche tra chi è dentro la pubblica amministrazione, nella fattispecie immagino gli insegnanti e anche eventualmente personale di sostegno. Allora, come ci si organizza in questo? Immagino ci vogliono degli investimenti, bisognerà istruire queste persone. Ci sono delle resistenze culturali? No, io non parlerei tanto di esistenze culturali quanto dell'approccio tradizionale, per cui se una cosa è stata fatta in una maniera si continua a fare sempre nella stessa maniera. Cambiare è pericoloso, è motivo di fastidio. Quella è una resistenza culturale, Moriondo. Ma è quasi inconscio, sono d'accordo, ma è quasi inconscia, cioè non è una resistenza a qualcosa che si conosce. E la voler stare tranquilli. Noi come facciamo? Creiamo dei dimostratori, per cui prendiamo dei casi concreti, agiamo direttamente su un caso concreto e dimostriamo che quella cosa si poteva fare, che cambiare il mondo è la cosa più bella che si possa fare se questo migliora la vita delle persone, e li responsabilizziamo di fronte al fatto che ormai che è stato fatto una volta la cosa è replicabile e copiabile, perché copiare e replicare accorcia anche sul lastre dei tempi quello che è il percorso di innovazione e di cambiamento. Ieri, giovedì, abbiamo visto premiare tanti progetti che sono a disposizione del sistema paese, esattamente come quello di cui parliamo, e chiunque voglia prenderli sa che sono patrimonio di tutti. La cosa complicata, io intanto la saluto perché so che deve andare, la ringrazio, Moriondo, buona giornata. La cosa complicata è proprio far entrare questi processi, far sì che altre amministrazioni li prendano in mano e soprattutto far sì che poi chi è all'interno della pubblica amministrazione, che non sono solamente i decisori politici, di questo tema parliamo spessissimo, no? Sono anche i dipendenti, i dirigenti, entrino in questo ordine di idee. Elena Piastra, assessora all'innovazione di Settimo Torinese, rimaniamo sempre in Piemonte, il problema è proprio quello, no? Esatto, il problema è esattamente quello. Noi l'abbiamo ad esempio notato cominciando con gli Open Data ormai più di 2 anni fa. E voi siete stati il primo comune italiano a varare un progetto Open Data? Sì, noi abbiamo approvato una delibera di giunta nel settembre 2011 con la quale ci impegnavamo a rilasciare appunto in formato open data i nostri dati. L'idea era quella di rilasciarli tutti, in realtà da lì a poco ci siamo scontrati, in realtà quasi subito, con le prime problematiche, che sono quelle che un po' citava lei, cioè sono quelle del modificare il sistema. non c'è solo una scelta politica negli open data, lo si vede molto bene. È un problema di meccanismo, di automatismo forse. E cioè, non so, guardi, io sono uno brutale, no? Nel senso, essendo un giornalista, sono abituato a semplificare. Il problema è che, molto semplicemente, il dipendente pubblico è abituato a scrivere a mano e quindi scrive a mano e non pensa nemmeno a mettere la cosa su un computer. Faccio un esempio no, banale. Così è fin troppo semplificata, però non so, ad esempio, rispetto agli open data va bene stabilire, ad esempio, nell'azienda digitale che tutti i dati devono essere lasciati in open data dall'amministrazione, perché questo può creare un meccanismo virtuoso, cioè a livello politico funziona, nell'operatività però di tutti i giorni non è così, perché le faccio un esempio qualsiasi, perché è quello col quale ci siamo confrontati. Io non posso chiedere a un funzionario di modificare la propria struttura abituale dell'organizzazione del lavoro perché quei dati che lui ha sempre utilizzato in una certa maniera devo rielaborarli e quindi devo fare un processo in più per renderli liberi. Allora, o agiamo alla base e quindi tutti i dati ancora prima. Quindi che porto io, guardi, poi mi scusi, Piazza, così chiariamo. Porto io l'esempio semplice. Hai quei dati in PDF e quei dati devono essere trasportati in un formato che sia open data, appunto. No, questo è il concetto. Gli devi far fare un passaggio in più e far fare questo a un dipendente pubblico è difficilissimo. Sì, dipende dalla motivazione, cioè o c'è una normativa alla base che lo impone o altrimenti è un processo in più, è una perdita di tempo in più spesso, perché tipicamente sull'open data io l'aspetto virtuoso non lo vivo domani, non so se mi spiego, ma non è una richiesta in più e di solito il processo finale non lo si avverte immediatamente, quindi è un processo un po' più complicato. Tra l'altro, voi siete stati premiati in questo premio IGOV 2013, non abbiamo parlato perché in realtà è una cosa che non riguarda propriamente questa trasmissione, nel senso che è un progetto di co-working molto interessante, comunque trovate tutto su www.pionero.it, è un progetto interessante, utile e però diciamo non riguarda esattamente... la rete e la politica, in questo caso i rapporti con la pubblica amministrazione. Gigi Cogo, però qualcosa inizia a penetrare, no? Nella testa delle pubbliche amministrazioni. Per quanto devo dire che io sono rimasto veramente stupito adesso, perché io sapevo che appunto Settimo Torinese è stato il primo comune italiano, me l'aveva raccontato appunto Elena Piastra, il primo comune italiano a varare un protocollo sugli open data, e però grande stupore perché questo è avvenuto solamente 2 anni fa, insomma, e di open data se ne parla diciamo non da oggi quantomeno. Ah, hai perfettamente ragione, mi ricordo scrivevamo di Open Data su Nova, proprio che è del vostro editore, nel 2009, quindi sono passati parecchi anni e ancora si parla di una cosa nuova. Ma in Italia è così, noi il trasferimento tecnologico e il trasferimento di paradigmi lo prendiamo, diciamo, sempre a piccole dosi e dilatato nel tempo. Ma io convengo con i due che hanno parlato prima di me quando il grosso problema è quello, è sempre stato così, no? Questa frase, ma ho sempre fatto così ed è sempre stato così, che è un problema prettamente culturale. Quello che abbiamo notato anche nei premi, nelle motivazioni di premi, quindi nei progetti che sono stati presentati e quindi nell'enfasi che abbiamo dato, abbiamo notato una cosa, che c'è qualcuno di coraggioso, no? Che senza aspettare le normative, e questo può essere un punto molto importante per comprendere tutta l'agenda digitale, no? L'agenda digitale è un impianto normativo che dopo deve essere attuato attraverso quelli che vengono chiamati decreti attuativi. Già qui è uno che mal di pancia spegne la radio e dice: ma è così difficile fare le cose? Anche perché poi spesso i decreti attuativi, e questo lo raccontiamo anche in altre trasmissioni, vengono scritti esattamente da quegli alti dirigenti della pubblica amministrazione o da quegli intermedi della pubblica amministrazione, che poi sono quelli che generalmente, lo dico senza offesa per tutti i dipendenti pubblici all'ascolto, che ce ne sono di straordinari, che però insomma tendono un po', per così dire, alla conservazione, no? a tirare il freno a mano, ma non solo perché vogliono conservare, spesso e volentieri, torniamo al problema della cultura digitale, vanno a rendere attuativa una norma di cui non conoscono assolutamente il paradigma fondante. Quindi uno non può scrivere delle norme attuative se non conosce il principio. Ma al di là di questo, qual è il problema grosso che abbiamo notato? Che si attua pochissimo quello che noi chiamiamo lo switch off. Che cos'è lo switch off? È una cosa che ci succede quasi sempre nella vita. Ti faccio un esempio. Se io ti dicessi oggi come fai tu ad andare a Londra, tu mi dici semplicemente mi collego, spero di non far pubblicità, a Ryanair piuttosto che a EasyJet, compro online un biglietto, pago con la carta di credito e salgo, giusto? Benissimo, non c'è un corrispondente in agenzia di viaggio, tu non puoi comprare Ryanair in agenzia di viaggio, questo si chiama switch off, cioè si cambia, non si va più in agenzia, non c'è più una bigliettazione, si fa tutto online. La stessa cosa, pochi principi, se tu la vuoi vedere nella pubblica amministrazione, è stata l'iscrizione online a scuola, quello è uno switch off, non si fa più in modalità analogica. Purtroppo in Italia si fanno pochissimi switch off, perché quando uno decide di fare uno switch off ci sono tutta una serie di rendite che si vanno un attimino a scardinare e allora c'è resistenza. Però a me sembra che gli italiani, gli switch off non è che dispiacciono, tu pensa anche banalmente quando è stato fatto il divieto del fumo, sembrava che dovesse scatenarsi il pandemonio, eppure lo consideriamo una cosa giusta. Quindi quello che dobbiamo operare nella pubblica amministrazione non è tanto la norma, è dire a un certo punto da quel giorno è fatto divieto continuare a fare ci vuole la botta secca. Questo, su questo sono perfettamente d'accordo, guarda, ne abbiamo parlato tra l'altro la settimana scorsa col senatore Russo che ha fatto questa battaglia contro il fax e ha fatto inserire nel decreto del fare un emendamento che dice da ora in poi le pubbliche amministrazioni dialogano solamente in elettronico, basta col fax. Voglio però per chiudere tutto questo discorso subito dopo la viabilità riparlare con Elena Piastra e le preannuncio già la domanda. Il tema è questo: nel momento nel quale tu riesci a fare lo switch off o riesci a far scattare quel tipo di mentalità all'interno del dipendente pubblico, dato che la tecnologia corre a delle velocità che sappiamo, insomma, signori, fino a 5-6 anni fa di social network nemmeno si parlava e adesso praticamente il mondo sembra concentrato su quello, voglio capire come fai ad adeguarli così rapidamente, perché ci vuole anche formazione, per come la vedo io, ci vogliono investimenti da questo punto di vista. Italiani! Vota Antonio. Come la rete cambia la politica. Allora, Elena Piastra, assessore all'innovazione di Settimo Torinese. La domanda gliel'ho già preannunciata, è come si fa a far sì che i dipendenti pubblici tengano dietro all'innovazione tecnologica? Ma guardi, forse perché sono un ente locale, rappresento un ente locale, in realtà per i nostri dipendenti pubblici è stato un obbligo. È stato un obbligo partire con la formazione ed è un obbligo riuscire a fare quello switch off a cui si faceva riferimento prima. Ad esempio, l'anno scorso l'INPS ha stabilito che il certificato sarebbe potuto essere scaricabile solo online, e però gli anziani arrivavano in biblioteca o chiedendo ma io come faccio ad andare a vedere dove si trova la mia pensione? Oppure, altro problema che abbiamo proprio in questi giorni, si è stabilito che tutti gli assegni di studio o i contributi per i libri di testo possono essere richiesti solo con procedura online. E anche qui, noi, solo per darle l'idea, la scuola è appena iniziata, abbiamo già avuto 3.153 richieste all'URP per poter accedere alla borsa di studio, per poter accedere al contributo dei libri di testo. E quindi in realtà i dipendenti si sono trovati obbligati a far fronte a questo problema. L'avete costretti, Piastra. Più che di noi è stato, È stato forse il nazionale, sì, probabilmente quell'imposizione di cui si parlava prima, perché in questo l'ente locale è proprio l'ultimo pezzo, no? È il rapporto diretto col cittadino, dove manca l'appoggio, manca il confronto. Allora, e che con queste procedure si risparmi tempo, non c'è dubbio, riuscite anche a risparmiare soldi? Probabilmente sì, non oggi. Io non credo che oggi si riesca a risparmiare soldi. Credo che sul lungo periodo però sì, questo indubbiamente sì. Ad esempio un URP che possa garantire uno sportello polifunzionale, laddove io vado ad aiutare il cittadino che ha effettiva difficoltà, penso al caso anziani. Tra l'altro stiamo facendo dei corsi di formazione anche per loro, qui rispetto a quello al tema più divulgativo di cui parlava prima. E forse sul lungo periodo arriveremo anche a risparmiare effettivamente soldi. Tempo indubbiamente lato cittadino, quindi a garantire servizi migliori. Quello naturalmente. Ah, grazie Elena Piastra, assessora all'innovazione di Settimo Torinese, per essere stata con noi. Gigi Cogo, che è direttore scientifico di Pionero, lo trovate tutti i dettagli, Pionero www.pionero.it, trovate anche tutti i progetti premiati, ci sono parecchie cose interessanti. Se ci sono persone che lavorano nella pubblica amministrazione all'ascolto, bene, andatevelo a guardare, prendete spunto, imparate, apprendete. Grazie Gigi, buona giornata. Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori, ciao. E adesso parliamo di Blogfest. Ne parliamo con l'uomo che ne è l'organizzatore e l'anima da anni, Gianluca Neri, buongiorno, benvenuto. Salve a tutti. Come stai? Molto stanco, perché la festa così grossa è molto difficile da organizzare, però devo dire siamo molto contenti. Quanti avatar tramutati in esseri umani si raccolgono alla Blogfest? Guarda, normalmente la Blogfest si svolgeva a Riva del Garda, che è un posto bellissimo, ma come potete immaginare abbastanza isolato e piccolo, quindi c'erano sempre sulle 3.000 persone. Quest'anno abbiamo quintuplicato il programma e la location è Rimini, quindi stiamo già ricevendo un numero di prenotazioni che è quasi 20 volte quello degli anni scorsi. 20 volte? Questo vuol dire... E le prenotazioni, cioè chi si iscrive ancora prima di arrivare, che sono in genere quelli un po' più nerd che vogliono essere sicuri di avere il bigliettino elettronico. Ah, ok, perfetto. Quindi 60.000 persone, no, spero non 60.000, no, Gianluca. In quel caso avrei dei problemi. Naturalmente. Allora, questa sera ci sarà la premiazione, cosa si premia? Ci sono categorie infinite. Guarda, sì, questa sera ci sarà la premiazione dei Macchinari Award, le categorie sono 32 ed è una delle cerimonie più sentite dalla blogosfera, ormai alla decima edizione, addirittura più vecchia della festa, e sono solo gli utenti a scegliere i migliori siti categoria per categoria, non c'è nessuna giuria. La democrazia diretta, eccola qua, la democrazia diretta tramite la rete e gli utenti che possono votare. Senti una cosa, tra l'altro lo sapete, ne abbiamo parlato all'inizio con la vicenda Barillari, Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, la piattaforma di democrazia liquida, ve l'ho detto, ci torniamo su questa storia, comunque non c'entra niente. Allora Gianluca, vedo tra le varie categorie, insomma, c'è sempre un Beppe Grillo là in cima, visto che ne abbiamo parlato da qualche parte, no? Sì, c'è sempre un Beppe Grillo in cima e un Beppe Grillo in fondo, no? Perché la rete ha queste due anime. Tu parlavi prima di democrazia diretta, la democrazia diretta grillina non è piaciuta tanto, perché le parlamentarie e le presidenziarie del Movimento 5 Stelle, ad esempio, sono state votate come peggiori flop dell'anno. Poi invece Beppe Grillo come personaggio è sempre in testa, perché c'è una buona percentuale di suoi sostenitori che comunque lo votano sempre, e quindi lui è sempre a prendere il meglio e il peggio dei premi che vogliono dargli. Questo per quanto riguarda Grillo. Altri personaggi politici in lizza? Allora, politici quest'anno veramente pochissimi, mentre ogni anno c'era sempre un po' il politico sulla cresta dell'onda e l'anno scorso vinse Matteo Renzi, Quest'anno potrei dire, e vado a memoria, che l'unico politico in lizza, nei premi ovviamente che non sono che vanno sul merito, diciamo, credo sia Civati. Ah, vedi. Poi, ad esempio, Emma Bonino è stata votata come miglior flop per la campagna al Quirinale. Ah, beh, certo, è certo, c'è stata la campagna sul Quirinale. Certo che forse, insomma, qualche... forse, lo dico agli utenti della rete, perché sono loro che votano, forse un minimo di attenzione in più anche al senatore Monti ci poteva stare, al senatore Monti su Twitter. Vabbè, come flop, come... non c'è proprio tra... come flop, non è stato nemmeno considerato come flop, e va bene. Allora, Gianluca, io ti ringrazio. Poi, insomma, stasera appunto ci sarà la premiazione alla Blogfest, anch'io circolerò da quelle parti a Rimini, in qualche modo mi trovate in forma digitale o in forma o dal vivo, insomma. Grazie Gianluca Neri, buona giornata. Grazie e buon lavoro. A voi. Si chiude qui questa puntata di Votantonio, ci sentiamo naturalmente la settimana prossima, ci sentiamo lunedì con 9 in punto, parleremo delle elezioni tedesche, tutti gli ascoltatori che di solito ci scrivono contro la Merkel possono scatenarsi lunedì mattina, vedremo che cosa succederà domenica. Ringrazio Pietro Lacorte in regia, Laura Fagini in assistenza, un grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo appunto o lunedì o sabato prossimo.